L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma allora vi devo dire una poesia, ragazzi. Muore la pecora, muore l'agnello, muore il bue e l'asinello, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Torna in camera, Maurizia. No, c'è lo scoreggione in camera, non posso. Accade a Napoli ed è un grande mistero per il web, caro Parenzo, per il cosiddetto web. Un immigrato si avvicina ad una macchina della polizia. Sì, senti. Sono entrato, lui è entrato, io immaginavo mi ha preso il pisello. Ti ha preso il pisello? Sì, perché non c'entro. E come ha fatto? Io mi... non... Una magia, com'è? Sì, la magia, ecco qua, la magia. L'hanno preso. Ti assicuro che è tutto vero, cioè, nel senso, la macchina della polizia è vera e questo tizio, un immigrato, immagino, insomma, uno nero è vero, cioè, mi hanno rubato il pisello, il poliziotto diceva che è una magia. Senti. Non ti preoccupare. Ma quindi questo che ha fatto? Ti ha rubato il pisello? Sì. Non ti preoccupare, gli ha rubato il pisello. E come te ne sei accorto? Tu te l'hai fatto vedere? No, non vuole vedere il tuo pisello. Non ce l'hai, che devi vedere? Allora, non ce l'hai, che puoi vedere? Funziona. Come non funziona? Secondo te? Qual è il ragazzo lì? Allora, aspettiamo. Allora, domani mattina vieni in caserma. Può darsi che tra oggi e domani il pisello ricompare di nuovo. Sì. Se non comprare di nuovo. Se ricompare un pisello, tutto a posto. Amici come prima. Altrimenti viene a fare la denuncia che ti hanno rubato il pisello. La denuncia di smarrimento devi fare. Ah? Ma adesso è piccolo. Sì. Vabbè, dai, può darsi che cresce dopo. A proposito di scazzottamenti e di parlamentari che si picchiano, Parenzo, Adinolfi, Monsieur Adinolfi, ha una particolare teoria. Se i parlamentari si scazzottano, poi i ragazzini si accoltellano. Ti giuro, ha detto così, non ci potevo credere perché... Ah, perché dice che danno il cattivo esempio. Ma sì, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Dai, su... All'Europarlamento uno si è dato un pugno con un altro collega di partito, l'ha mandato in coma... Nel Parlamento italiano, all'ora di ricreazione a Montecitorio, due del Movimento 5 Stelle si sono venute alle mani e inevitabilmente i ragazzini 14 anni di Napoli a quel punto si prendono a coltellate. Se il paese impazzisce. Allora, vogliamo andare con Vanna Marchi? Andiamo con Vanna Marchi, dai. Quelli truffati, i cosiddetti truffati. Beh, ieri è stato il grande giorno della ricomparsa di Vanna Marchi in televisione con Costanzo. Avevano i soldi per comprare i miei prodotti. Credo che si riferisca alle vittime, lei mi dice che io vendevo a chi non aveva soldi, eccetera, può anche essere, però se li compravano i soldi li avevano. No, allora, magari facevano i buffi, magari sì, non, dai. Ma non glieli facevo fare io, però. Senta, sì, non glieli faceva fare lei, ma per comprare magari facevano io. Ma... No, poi ancora dice, mi ritengo colpevole solo di essermi affiancata a un mago. Cioè, quello che era la persona più onesta della, del Don gruppo. Don Nascimento. Di che si viene colpevole? Beh, mi ritengo colpevole di aver affiancato un mago che invece avrei potuto fare a meno. Certo. Solo di questo? Sì. Beh, c'è una piccola sentenzina, eh? C'è una piccola sentenzina ormai passata in giudicato, sì, nel senso ormai che poteva truffare da sola, poteva truffare da sola senza l'ausilio dell'altro, dell'ottimo Don Nascimento. che era gay. Ha rivelato questa cosa, poco, no, ma l'ha rivelata poco ieri. Importante, era poco gay, importante. Soprattutto era il maggiordomo di un marchese. Sì, sì, sì. Guarda, che dettagli. Don Nascimento, sì, dettagli, Don però Nascimento. Curiosi, no? Don Nascimento. C'era una simpatia sentimentale tra lei e lui. Ma sta scherzando? Ma per carità, ma può essere tre volte mio figlio? No, dottore. No. Ma sta scherzando? Ma lui era Io sono innamoratissima del mio nuovo marito. Ma lei... sono contento per lei, ma lui era fidanzato con qualcuno? Lui è gay. Ah, è gay? Certo. Vedi? Me l'ha presentato un certo marchese che adesso è morto, non esiste più. Mi disse portalo in televisione con te, io lo portai. Ma lui che faceva la marchese? Il maggiordomo. Ma il marchese era un po'. Sì, sì. Ah, ecco. No, era lui col marchese. Non credo, però ci lavorava. Insomma. Ma sa, magari una simpatia una volta ogni tanto. So. No, per carità. Costanzo è un grande contento. Ecco, vedi. Una storia di porcheria assoluta. Vedi. Il marchese, il vecchietto, quello che da maggiordomo diventa mago. Dai. Poi fa un esempio di televendita. Senti, un esempio di televendita. Comunque, vi possiamo dire, così per darvi un accenno, che in realtà i maghi un po', no, che cercano di prendere come predatori, quattrini alla gente, esistono ancora. Beh, vero? Certo, esistono ancora. Esistono come? È come se esistono, stateci a sentire stasera. Volete dimagrire? Perché i grassi fanno schifo, l'ho sempre detto, certo, vero? Certo. Ecco. E io ringrazio magari... a nome della categoria. Andiamo avanti. No, poi, ma io no. Ma si figuri, cioè, poi. Dovete dimagrire. Se non volete avere le corna, se volete piacere a vostro marito, se volete che vostro marito non cerchi le persone più. Bravo. D'accordo? Ma non è in forma con d'accordo, col vecchio d'accordo. Abbiamo fondato i comitati per il sì alla riforma del referendum di Renzi, che non so neanche che cazzo vada ad abrogare, ma d'accordo! Allora, vi dovete iscrivere all'800240024, fare un bonifico di 42.000 euro. Ma come? Che... Silenzio! Vi arriverà a casa una scheda elettorale dove ci sarà scritto votate sì per la riforma oppure votate sì per la riforma. Due alternative. 40.000 euro. Ma perché? Altrimenti avrete la rogna, il cesso otturato, vostro marito che vi mette le corna col maggiordomo del Nascimento, tutte le sfighe del mondo. Vi verrà dato a casa ogni giorno il sole 24 ore nel caso non facciate l'abbonamento. D'accordo? D'accordo? Cioè, che sei praticamente Vanna Marchi assunta da Renzi, sostanzialmente. Assunta da Renzi. D'accordo? Ma scusi, signora Marchi, perché bisogna pagare 40.000 euro? 42.000 euro più IVA? Perché per votare referendum? Ma basta due alternative. Volete voi riformare la Costituzione? Sì. Volete voi cambiare la Costituzione della Boschi? Sì. Due alternative, d'accordo? Basta andare a votare poi. Ma non basta andare a votare. Perché iscriversi al comitato? Noi abbiamo fondato il per evitare la sfiga, per la vita. Abbiamo, esatto, per abbattere la sfiga che in questo momento, allora, siccome ci dicono che i no sono in vantaggio. Noi abbiamo detto a Renzi, noi, io e la nobile entra, abbiamo detto di fare il comitato per il sì. Vanna Marchi per il sì al referendum, d'accordo? Mi bisogna che lei mi faccia, magari la richiamerò tra un'ora, signora Marchi, l'elenco delle sfighe se uno non vota sì, capito? Cioè l'elenco delle cose che posi malocchi. Ogni giorno a casa il sole 24 ore. No, questo no, scusa, questo non è bello. Questo c'è, chi ha detto? No, non lo so, la Marchi, è la Marchi, non c'entriamo niente. Siamo al top, ragazzi, siamo al... La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Con il signor Parenzo non sono d'accordo neanche quando sceglie la cravatta per uscire di casa, neanche quello sono d'accordo, ma in questa stagione il signor Parenzo è in grande forma, in grande forma. Allora sentite l'impazzimento di Sgarbone sui magistrati inutili. Se dovesse vincere il no al referendum, ecco la profezia di oggi, avrete a casa ogni giorno nelle vostre case pranzo, cena e colazione Zagrebelski, d'accordo? Tutti i giorni che bussa a casa e vi dice toc toc, vi spiego la riforma del cazzo, toc toc, ogni giorno pranzo, cena e colazione, d'accordo? D'accordo? No, ma c'è anche qualche malocchio, però so, poi me lo rivelerà durante la puntata. C'è anche qualche malocchio negativo se dovesse vincere il no, cioè cose terribili dal punto di vista della salute. Comunque, Sgarboni, magistrati inutili, andate a cagare. Magistrati inutili che rubano danari non facendo un cazzo e che devono andare a sapere che cosa è stato fatto per Ruby. Per Ruby, per Ruby, quando è chiarissimo, e tu lo sai, che il vero reato è circonvenzione di attempato, punto. Attempato ottantenne malato di cuore, processo Rubiter. Ma andate a cagare! A cagare! Signor Sgarbi, ormai questa sul processo Ruby, di cui non frega un cazzo più, no, no. Ormai nessuno si interessa più delle vicende giudiziarie di Berlusconi, nessuno. No, però nessuno. Oggi effettivamente la notizia dell'assoluzione dell'ex sindaco di Roma Marino fa riflettere. Sì, sì, quello ne parleremo. Per anni abbiamo oggi discusso. Oggi è una giornata di assoluzioni, tra l'altro. Sì, è stato assolto, certo. Cota per le mutande verdi, Cota e Marino per Roma. Cosa, certo, più importante, certo. Marino per Roma, anche se la cosa di Cota in realtà ha fatto cadere quasi una regione, quella vicenda lì. Esatto. Alla fine, se non ci fossero state le mutande verdi, Cota sarebbe ancora rimasto presidente della regione, diciamo la verità. Se non ci fosse stato l'emblema dello scandalo delle mutande verdi, probabilmente sarebbe rimasto lì. Poi c'è la storia delle firme, eccetera, eccetera. Però. De Luca, senti, il governatore del mondo, sai che adesso Roma ha un nuovo assessore al bilancio che si chiama Mazzillo. Siamo Mazzillo. De Luca, Mazzinga. Sì, è uno sconosciuto. Mazzillo. Che cazzo c'entra Mazzillo? Mazzinga, è vero, sì. De Luca dice che ha le orecchie come delle pale eoliche. Vabbè, ma perché andare sulle cose personali? Senti. Io ho visto che l'ultimo assessore che hanno nominato, tale Mazzillo, che dire di questo giovanotto? Ha detto lui stesso: io mi ritrovo qui perché non ci voleva venire nessuno. E diciamo anche fisicamente l'unico elemento davvero rimarcabile, rimarchevole, pregevole di questo soggetto. Scherziamo un po', diciamo, è la sua immagine estetica. L'ho visto, si è presentato, due orecchie tipo pala eolica. Madonna mia. E fate anche scelte esteticamente meno improbabili. Però devo dire la verità, che è il numero uno assoluto, ovviamente. È il numero uno. Però, amico De Luca, ti abbraccio fortissimo. Non sei Alain Delon, ecco, insomma, devo dirtelo chiaramente, caro Sito. No, cioè, caro governatore del mondo, non sei Alain Delon, anche tu non sei Alain Delon. Questo ci avrà le orecchie come le pale eoliche, probabilmente, non lo so, non l'ho visto bene. Hai ragione tu, sicuramente. Però, ecco, insomma, come governatore del mondo non c'è. non c'è Richard Gere, ecco. No, o sbaglio, sì, perché no. O sbaglio, anche lui non penso che abbia frotte di donne dietro, no, signor De Luca, dai. Adesso, per carità, noi ammiriamo, per noi io lo venero, io lo sai che credo che mi farò fare il santino di De Luca da mettere, il da busto, mettere... il busto. Ah, il busto, si può darsi il busto, però prima il santino, prima la piccola fotografia, ogni mattina mi alzo, guardo il signor De Luca, rido e vado avanti. Oggi vorrei parlare anche del significato che diamo alle parole puttana, troia e queste cose qua. Cioè, quando ci rivolgiamo questo lessico familiare. No, quando come ci direbbe... rivolgiamo ad una donna e noi le diamo questo, questi epiteti quando parliamo tra uomini, no? Cioè, non vogliamo insultarle, facciamo degli splendidi complimenti. Beh, insomma. Cioè, la parola troia affibbiata ad una donna, accanto a una donna, è un complimento meraviglioso di una donna sessualmente disinibita. Questo è il punto fondamentale, devi capire. Che quando tu senti, ah, oh, maschilismo contro le donne, insulto alle donne. No, no, assolutamente. Dare della troia a una donna è un grande complimento. Le teorie, un grande complimento. Le complesse teorie di Cruciani. No, ma non c'è nessuna teoria complessa, è una cosa molto semplice, condivisibile, assolutamente. Mi pare condivisibile. Assolutamente non molte donne sono d'accordo con me. Rocco da Pavia, intanto. Rocco, vai. Signor Rocco, vai. Pronto, ma da Padova? Da Padova, beh, è uguale, dai. Bravissimo, ciao. E io volevo intervenire perché fondamentalmente Parenzo mi deve 20 euro. Perché ti deve 20 euro? Non credo, che devi 20 euro a questo signore, tu, Parenzo? Non mi risulta, no, assolutamente. È la prima volta, David, che te li chiedo, spero che tu sia gentile. Vabbè, fondamentalmente ieri eravamo con degli amici annoiatissimi. Sì. Giovedì sera, che se fa, che se fa, andiamo a puttane, giusto? Sì. Vabbè, non è giusto, cioè, giusto, non è giusto. Vabbè, vabbè, siamo giovani, si va a puttane. Allora, io quando ero giovane non ci andavo, però devo dire la verità, era più difficile, vabbè. Però non ci andavo, dai. Comunque, vabbè, vabbè, cioè, comunque, insomma, andiamo in caccia così in giro, non c'è neanche una rumena, non si trova niente da fare. Finché alla fine, vicino allo stadio Euganeo, che Parenzo conosce bene, troviamo delle interessanti ragazze di colore. Vabbè, allora che andiamo al sodo, vabbè, dai. Andiamo, c'è ragione, sono morale della favola, scatta chi va, chi non va, chi va, chi non va, io prendo, vado per primo, cerco di sconfiggere un po' l'imbarazzo, lei cerca di mettermi a mio agio. Vabbè, la conclusione qual è? Alla conclusione che appena lei ha cominciato a lavorare mi è venuta in mente la vocina di Parenzo e continuava a darmi del miserabile, certo. Miserabile, bravo, meno male. Miserabile. E non ce l'hai fatta, non ce l'ho fatta, perché ragazzi. La tua coscienza si è ribellata alle porcherie che volevi fare, quindi vedi che c'è un po' di umanità. Però, David, anche nella sua provare... come si chiama questo qui? Si Rocco, chiama Rocco. Tal Rocco da Padova. Allora, fosse vero effettivamente Parenzo, tu potresti avere avuto questa influenza nefasta positiva. Beh, però sulle prestazioni no, gli hai dato quello, ha dato 20 euro, scusami. Vabbè, ma io gli dico mi sembra anche 20 euro un po' poco, sinceramente. Appunto, è tutto un po' strano, diciamo. Tutto un po' strano. Curioso. Fermi! Torniamo tra poco. Fermi lì! Lasciati un Parenzo e alla defecazio non ci penso. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento La Zanzara. Ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. Senza controllo sanitario. Allora, ci siamo persi l'altro giorno, caro Parenzo, Briatore, il signor Briatore e la questione dei delle persone che lavorano nei suoi locali, no? A Dubai. Chi lavora con me deve essere un fit sorridente. Senti. chi lavora con noi deve essere fit, deve essere gente che fa sport, gente che lavora perché fa tante ore, ed è gente, deve essere gente che sorride. Il cameriere non va mai qui, non si sposta mai. Io dicevo ai manager, dobbiamo mettergli una catena di un metro perché non si deve allontanare mai dal tavolo, e adesso sono abituati. È bellissimo, bisogna mettere una catena di un metro, non si devono mai. Lo sai che invece a me danno fastidio quei locali? No, mi danno fastidio quei locali dove ci sono i camerieri che ti stanno accanto ogni tre secondi, che ti rompono i coglioni lì, che ti chiedono ogni secondo: prego, ti tolgono il piatto, tu hai finito di mangiare l'ultimo pezzo, tac, arrivano e ti tolgono il piatto. Dipende dove vai. Insomma, ma dipende, no, è una cosa fastidiosissima, col cameriere a disposizione ogni tre secondi che sta lì, che ti guarda, no? Che magari sente quello che stai dicendo. Cazzo, allontanati, lasciami da solo, sennò che cazzo venga a fare al ristorante. Per lavorare qui minimo, poi comunque bisogna essere fit, voglio capire che cosa significa, voglio essere fit, cioè fit significa adatti, slim, sì, fit, tu dici adatti, no? Sì, perché unfit sarebbe, sì, inadatto. No, ma ho capito, quindi. Però secondo me devono essere... Ti ricordi la copertina dell'Economist? Come no, su Berlusconi, Berlusconi, certo, e c'era scritto unfit, sai perché non inadatto. Lo fanno su Trump? Perché non lo fanno su Trump? Vabbè. Allora... Per lavorare qui minimo 1,78 di altezza, si riferisce ai camerieri, si obbligatore. Belli, alti, non musoni e magri. Belli, sai, belli poi dipende, uno può essere attraente senza essere bello, uno può essere figo senza essere un modello. No, siamo razzisti, solo le altezze. Quanto è il minimo per fare il cameriere da lei qui? No, siamo solo 1,75, 1,78. E fin qui va bene, no? Cioè 1,78, sì. uno può scegliere i camerieri che vuole, no? Cioè nei propri locali, certo. Uno dice li voglio alti, 1,78, biondi, ariani, eccetera, eccetera. Cioè, dicesse ariani sarebbe un inferno, ma comunque insomma. Però poi si inserisce la questione dei filippini. Sai che ci sono un sacco di filippini a Come Dubai. Come l'ho seguito, l'ho seguito. Senti, l'ho seguito. Filippini, senti che è spettacolare, lo hanno accusato, razzismo, eccetera, puttanate. Poi qui siamo obbligati a pigliare dei locali, filippini alti 1,80 m non ci sono, ma loro sono di secondo servizio, ci sono 4-5 camerieri filippini che sono a disposizione, accenderti la sigaretta, versarti, portarvi al ghiaccio. A noi sulla spiaggia abbiamo un ragazzo che pulisce gli occhiali, perché quando tu vai al mare ti metti la crema, ti rimane sempre la crema sugli occhiali, poi vai a fare il bagno, lasci l'occhiale lì, ritorni l'occhiale pulito. Ma questa l'hai sentita? Te l'avevi sentita, sì, certo, questa? L'ho sentita. Beh, ma è spettacolare questa. Un qua. Po' razzista, indubbiamente. Ma quale razzismo? Ma che c'entra il razzismo? E sei impazzito? Cioè il razzismo? Ma è una cosa incredibile, cioè. Beh, dal lavoro, in che se... dal lavoro ai filippini. Sì, ho capito, non ma avrebbero un cazzo da fare questi filippini. Di... È il modo come parla, filippini, però. Bali, filippini, spiaggia, l'occhiale sporco di crema, tu vai là. E poi mi starebbe pure sui coglioni uno che mi viene a toccare gli occhiali e a pulirmi gli occhiali. Ma no, il concetto, dai. Ma quale concetto? Dal lavoro! Ma perché devi fare quello, cioè, con però, questi vabbè, pregiudizi? Dai, cioè, questi filippini non hanno un cazzo da fare. Giudico quello che ha detto, non ma è che non hanno lavoro, li utilizzano per i posacenere. Che cosa ha detto? Cioè, per accendere le sigarette, bellissimo. Cioè, uno accanto, tac. Ti accende la sigaretta e ti pulisce gli occhiali. Ma è incredibile. Fai solo questo tutto il giorno: accendi sigaretta e pulisci occhiali. Che cazzo vuoi fare? Filippino, sei più basso di quegli altri, devi essere minimo 1,78. Ha detto gli altri nel suo locale, fuori, via. Invece, Filippino lui riutilizza. È cioè, sono unfit, dai. Sarebbero unfit per inadatti, lavorare. Inadatti. Inadatti, e invece lui li trasforma in fit. Che gentile che è per accenderti le sigarette. Ma non ho capito, ma qual è il problema? Vabbè, non vabbè, ho capito. Ragazzi, qual è vabbè, io non ci andrei mai. Io ho detto una volta a Biratore: ho detto, guarda, io nei tuoi locali, mai nella vita, perché uno che mi accende la sigaretta mi sta sui coglioni. Prima perché non fumo e poi perché il sigaro per esempio me lo voglio accendere da solo come pare a me. Per cui uno che sta là mi accende il sigaro mi starebbe sui coglioni. E poi sempre gente intorno ai tavoli. Eppure quando stai al mare lì le sigarette. Te, e dai, che cazzo. Però dal lavoro. Cioè dal lavoro un sacco di gente. C'è poco da fare. Ah, poi c'è anche la paghetta al figlio. La paghetta al figlio. Uno può dire vabbè la paghetta. Sentite adesso di quanto è la paghetta, no? E uno dice vabbè. Paghetta al figlio è giusto, è normale, no? Da considerare una cosa, che il figlio ha sei anni. Lei dà la paghetta a suo figlio? Sì, sempre. È puntuale, io non so se sia Nandani, lui appena arriva il giorno, qualunque cosa comincia a rompere, poi è asfissiante, se non gliela dai ti rompe tutto il giorno, per cui la paghetta, gli do la paghetta, che sono 100 euro al mese. Al mese? Vabbè, bambino di 6 anni, insomma. No, ma lui non spende una lira. Non ho capito sta storia della paghetta, cioè, ma, dai, ma come si fa però adesso? Perché non voglio dare nessun giudizio morale. I soldi sono suoi, quindi ognuno fa quello che gli pare e ognuno educa i figli come gli pare. Ma un bambino di 6 anni che dice poi non spende una lira, ma ti credo. Beh, non sa come spenderli, certamente. Ma sì, vabbè, ma non è che va... coccia, dai, mette dentro. Ho capito, ma non è che va in discoteca e dice c'ha 6 anni, già 100 euro al mese, ma stiamo scherzando. E vabbè, comunque, che sarà mai 100 euro al mese, dai, su. Sì, è vero, è un po' bizzarro perché non li spende, non saprebbe come spendere. Ma non è bizzarro che dai una paghetta un bambino di 6 anni, dici glieli metto da parte su un conto, che ne so, però ognuno fa quello che gli pare. Allora, molti ieri ci hanno detto ma quel il figlio di quel tizio che è morto al San Camillo non doveva portarlo lì perché non si portano i malati terminali lì, i malati in quelle condizioni comunque non si portano nel pronto soccorso, eccetera. Una risposta a questa l'ha data parzialmente anche lo stesso Cairoli in qualche trasmissione, una delle innumerevoli trasmissioni in cui è andato. Signor Cairoli, senti. Persone che mi hanno criticato per questo, che non si portano i malati terminali in pronto soccorso. Mio padre non era un malato terminale, lo è diventato al San Camillo. All'improvviso, quella notte? Sì. Allora andiamo a Antonio Taranto, vai Antonio. Antonio, dimmi. Sì, ascolta Cruciani. Dimmi Antonio. Ma dimmi. Sei uno scornacchiato che mai vi... Che non è mai successo? Visto che... come te, scusa. Che è se successo? Tu mi vai a dire che è giusto dire a una donna troia. No, ma non ma ho detto giusto. Ma da dove cavolo esci, voglio? Da dove cavolo esci? Antonio. Ma sei proprio uno stronzo, proprio fatta stronzo, Cruciani. Antonio, devi stare calmo innanzitutto. Tu fai, devo stare calmo. Fai il camionista, giusto, fai il camionista. Camionista di linea pure, ma fa ancora a te e a quanto con la te. Mo sono sulla strada con un amico che stiamo andando a Bari e vado a sentire certe cose. Ma se io mi permetto di dire troia a mia moglie, quella mi manda dalla finestra, mi bravo. Io però neanche, scusami, neanche bravo, la puttana dico che è troia. Cruciani, però, ma scusami, che cazzo stai dicendo? Non è che stai facendo fallire il Sole 24 ore tu. No, io guarda, e no, sta... forse è il contrario. Però Antonio, c'è una cosa molto semplice. Io ho detto, non è che è giusto dare. Ho detto semplicemente che dare della puttana, della troia, cioè utilizzare certi epiteti non è necessariamente una cosa, a meno che uno dica brutta puttana, pezza di merda, schifosa, maledetta, eccetera. Allora sì, se tu dai quella che, come hanno fatto quei due, no? Mentre parlavano al Grande Fratello, sai, quella è veramente una gran puttana, veramente una gran baccola. Quando si dicono queste cose, quando si usano queste espressioni, nel tuo gergo, è bello. No, quando si usano, non ho detto che è bello, quando si usano queste espressioni normale. Tra uomini. Le si usa non per insultare, le si usa per dire che quella donna lì è una donna particolarmente disinibita, sessualmente prorompente, insomma che è una gran porca, ma non è in senso negativo, cioè capito che voglio dire, Antò? Hai capito oppure non ci arrivi? Ci arrivi o non ci arrivi? Ci arrivi oppure c'hai il cervello bacato? Hai il cervello bacato? Hai il cervello bacato? Hai il cervello bacato? Sta parlando al bar con l'amica, vabbè, sta parlando al bar con l'amica. Hai il cervello bacato, hai il cervello bacato. Io ho il cervello bacato. Ma tu limitato, sei un capo stronzo, limitato, sei un capo stronzo se mi dici che io ho il cervello che bacato. Che vuol dire in italiano? Che vuol dire? Che sei un grande stronzo, è scornacchiato. Ma che vuol dire? La parola scornacchiato, per esempio, in senso scornacchiato, che sei proprio un qua là qua, Cruciani. Sì, un qua qua là qua. Ma che c'entra proprio? Qua qua là qua? Un bel qua qua là qua. Parli perché sei davanti al microfono là. Certo, quello parli, di davanti al microfono, lontano dal microfono è difficile. Cioè, ascolta, Cruciani. Chi è l'amico tuo? Chi è l'amico tuo? Chi è l'amico mio? Un amico mio, chi è l'amico mio? Sta sentendo? Che sta facendo? No, sta che sentendo, sta? È chiaro che sta sentendo, siamo in due. E che ne so, se magari stava parlando con un'altra persona, che ne so. Stasera proprio hai è un altro, toccato, è un altro come te questo qua, un altro cretino come te, chi è? Ma... un altro cretino come te questo qua. Stasera hai toppato, toppato. Grande, Piero da Roma, ciao Anto, Piero. Ciao Cruciani. Dimmi, Aspetta, no, fermo, fermo, ti devi fermare. Ti devi fermare un attimo, però, amico mio, perché purtroppo. Sono fermo, ho la radio spenta e sono proprio fermo per. No, no, ma lo so che ti devi fermare, ci dobbiamo fermare pure noi. Due minuti e sono di nuovo da te, fermo lì, no, non te andare. Io neanche una puttana dico che è troia. Cruciale, ma che cazzo stai dicendo? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Io sono Robur K18. Anch'io sono K18. E io pure. Io anche. Per il riscaldamento di casa e l'acqua calda, punta in alto. K18 è il sistema Robur in pompa di calore a gas. Ha un'intelligenza che usa al meglio l'aria, l'energia rinnovabile più disponibile. Le K18 ora sono 10, 10 modelli per ogni esigenza, dove come vuoi, anche da interno. Accendi il risparmio. Accedi agli incentivi, con K18 dimezzi le spese. Nuove K18, 10 e Robur. Robur, coscienza ecologica. È in pieno centro o fuori dal centro? È nuova, da rimodernare. La senti giusta da subito o dopo averne viste 100? È piccola, ma ti farà sentire grande. Se trovi la casa giusta, oggi c'è un mutuo per non fartela scappare. BNL ti dà una risposta certa per l'acquisto della tua casa in solo 5 giorni. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Messaggio pubblicitario, finanziamento soggetto ad approvazione, fogli informativi su bnl.it. Mancano circa due mesi a Forum Agenti Milano, la fiera dei colloqui di ricerca agenti. Se la tua azienda cerca nuovi agenti di commercio, oggi è il momento di agire. Vai su agenti.it, prenota subito il tuo stand a Forum Agenti Milano, perché incontrare gli agenti di persona vale più che ricevere 1000 curricula. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Chiedilo a Visiran. Vorrei uno strumento per ottimizzare la gestione della mia flotta di veicoli. Potete aiutarmi? Esiste un modo per gestire in tempo reale e scaricare da remoto i dati del tachigrafo dei miei mezzi? In azienda sprechiamo molto tempo nella gestione e programmazione di guasti e manutenzione dei mezzi. Una soluzione? La prima voce di costo della mia azienda sono i consumi di carburante. Cerco da tempo un modo per abbattere questi costi. Senza successo, come faccio? Vai su radio24.it, entra nella sezione Chiedilo a Visiran e mandaci la tua domanda. La Zanzara. Ma sei proprio uno stronzo, proprio fatta stronzo, Cruciale. Eppure non te lo volevo dire. Allora mettiamo qualcosa di Marino, va, il sindaco di Roma, che oggi ha fatto naturalmente dopo l'assoluzione dalle accuse sugli scontrini eccetera eccetera, ha fatto una conferenza stampa e ha sparato a zero contro chiunque, naturalmente, ma con una certa ragione. E il PD dice che l'ha fatto fuori non per gli scontrini ma per l'inadeguatezza, cioè non era in grado. Anche questo è vero, gli scontrini sono una scusa. Sì, furono utilizzati, anche dal PD, cioè non è che non fu utilizzato come argomento dal PD questo qua. Gli scontrini sono stati l'occasione per cacciarlo a pedate. E comunque in ogni caso non è stato cacciato nemmeno dal consiglio comunale, cioè si è dovuto dimettere perché ormai gli avevano detto dal PD che non c'era più, non si poteva fare più niente. Poi magari l'avrebbero sfiduciato lo stesso. Comunque è roba passata. Marino dice che i romani sono stati violentati. Nella nostra capitale un anno fa la democrazia è stata lesa, la verità è stata negata e centinaia di migliaia di romani sono stati e di romane sono stati violentati nella loro scelta democratica che avevano fatto di un sindaco. Comunque ragazzi, un po' è vero che hanno fatto una specie di golpe questi qua del PD romano all'epoca, o comunque questi qua del PD, compreso Renzi, che a un certo punto non sopportava più Marino. Hanno fatto una specie di colpo di Stato a Roma, di piccolo colpo di Stato a Roma, costringendo questo alle dimissioni, utilizzando l'arma degli scontrini. Beh, lui eccetera, ha provato a resistere, poteva farsi sfiduciare dal Consiglio Comunale, sì, non l'avrebbero, fatto, l'avrebbero, quindi anche lui ha... Sì, per carità, però al di là di tutte queste tecnicismi, di questi passaggi che sono importanti, per carità, c'è un dato di fatto. Un sindaco eletto democraticamente del Partito Democratico, eletto democraticamente, che viene fatto fuori dal suo stesso partito. Per carità, non è la prima volta che accade, però certo è incredibile. Cioè, adesso ve beccate la raggi, amici miei, no? Piero da Roma, vai Piero, vai. Cruciani. Dimmi Piero. Volevo dirti che hai ragione, pienamente ragione. Che donna è una donna che non è un po' puttana? Che non è puttana questo, nel cuore. Ma questo d'accordo, sono d'accordo con te, però... Ok, ma il fatto è che questo lo pensavo io con i miei amici al bar. Fino a quando un giorno mia moglie mi ha detto: dimmi che sono più puttana di quella che ti scopi. Ma io le ho detto: ma io non mi scopo nessuna. Lei me l'ha fatto dire mentre facevamo sesso: dimmi che sono più puttana di quello. E alla fine c'aveva ragione lei. Vabbè, questo è un gioco vostro, è un gioco vostro per eccitarvi, evidentemente. Ha fatto bene a raccontarlo in diretta, magari anche sua moglie sarà contenta. La signora immagino sarà contenta di questo suo racconto in diretta, di questa sua intimità. Magari se ce la passa possiamo anche, no, contribuire anche noi a definirla così. Non ce la posso passare ora, vedo se vi posso passare l'altra, però. No, l'altra no, adesso sennò sembra veramente una buffonata questa cosa qua. L'altra che vuol dire l'amante, che cos'è? Cioè, ma questo è se una donna non è un po' puttana. Non è puttana nel cuore. Sì, ma al di là di puttana nel cuore, eccetera, eccetera, questo siamo d'accordo. E quando glielo dici? Quando glielo dici? No, ma utilizzare... Io stavo parlando dell'utilizzazione di certe espressioni, per esempio quelle che ma sono state... Ma penso che siano giuste, non sono un'espressione offensiva. Sono delle espressioni che esaltano la qualità della donna che hai davanti. Altrimenti dopo andiamo tutti a puttane cercando le puttane. Che ci andiamo a fare? Se... Cerchiamole nelle nostre donne, no? No, no, ma Piero, per carità, conclusione Amelio da Modena, vai, Amelio, vai, Amelio. Volevo dire qualcosa su Briatore in risposta a Parento. Sì, sì. Il fatto che Briatore dia la paghetta al figlio è un fatto di educazione, educare i figli a un concetto di... a sei anni 100 euro non è... Io no. Non entro nel merito, no, ognuno... Entro, ho premesso, cara Amelio, Amelio da Modena, caro Amelio da Modena, ho premesso che ognuno educa i figli come gli pare, però siccome questa è una trasmissione dove si commentano cose dette pubblicamente, mi permetto di dire che dare a un bambino di 6 anni 100 euro al mese... E poi dire, ma tanto non spende nulla perché non compra niente, perché comunque ha 6 anni e quindi è impensabile che vada da solo a comprarsi i vestiti in un negozio. Mi pare, io non lo farei mai di dare questi soldi ai miei figli di paghetta a 6 anni. Ma ecco, mi sono permesso di dire questo. Poi. Allora, che tu non lo faccia, hai detto tu stesso. Me lo trovo diseducativo se uno me lo chiede, non però è vero, non è che non è diseducativo, il mio modo. Addirittura diseducativo. Beh, molto diseducativo, se vuoi sapere. No, ma perché tu educhi il ragazzo a un concetto del valore delle cose. Del valore. Beh, però a 100 euro, euro in mano, quello là non sa che farci con quei 100 euro. Magari un genio. Comunque ognuno fa quello che gli pare. Ma non li va a spendere. Ha un rapporto anche col padre, o 500 euro, ha un rapporto 1000 euro col padre. Va bene. Comunque ognuno fa quello che vuole, non mi interessa. Io non è che insegno niente a Briatore, me ne frega niente. Io non lo farei, posso dirlo ancora? Va bene, posso dirlo? Sì, certo, sì, perché certo. Allora, certo. Basta. No, tu sei libero, scusa. Ti credo, grazie Amelio da Monte. Allora, caro David, tu lo sai come funziona con i maghi, no? Cioè, ce ne sono ancora tanti, ce ne sono ancora tanti. Allora, che succede? Succede che su internet tu vai, prendi un numero di telefono, ce ne sono, basta andare a cercare sui siti, no? Maghi, cartomanzia, eccetera, eccetera. Cioè, ho voluto fare un piccolo esperimento, no? Cioè, come funziona questo mondo? Cioè, te fottono i soldi, in che modo te li prendono, ti turrupinano, che fanno? Cioè, ti prendono per il culo, uno chiama, uno per telefono, un numero qualsiasi che prendi su internet. Mago, in questo caso, maestro Ruggero, sensitivo, medium, cartomante, chiromante, astrologo, 40 anni di esperienza, conosciuto in tutto il mondo, ritualistica di qualsiasi tipo, magia bianca, nera, gialla, rossa, unisce la persona amata in soli 4 giorni, unisce la persona amata in soli 4 giorni, prepara potentissimi talismani personalizzati, protezione a vita. Maestro Ruggero, parapsicologo, il più dotato veggente del mondo, addirittura pranoterapeuta, competenza integrativa e non sostitutiva dei metodi razionali nel risolvere determinate patologie. Maestro Ruggero elimina malocchio, fatture, vede e distrugge qualsiasi negatività, letture ed analisi tramite carte con visione di passato, presente e futuro, in amore, affari, studio, famiglia. E soprattutto favorisce rotture con recupero della persona amata con potenti legamenti d'amore ritualizzati. Il maestro Ruggero. Pardon? Maestro? Sì, chi parla? Buonasera, sono Giuliano. Mi dica. Pronto, buonasera, mi scusi. La disturbo? Mi dica, di che, no. Sto cercando aiuto per un problema importante di amore che ho. Mi dica. Posso parlare chiaramente? Sì, certo. Beh, quanto mi costa, maestro? Mi scusi. La prima domanda è gratuita, mi dica il problema. Beh, il problema è ho tradito una persona.

Aspetta, vai che ti lì, passo, ti passo Franco un attimo. Oh, senti, non mi disturbare, cerca altre persone. Mago, Ruggero, Ruggero. No, ma la cosa incredibile a me è che uno passa in tre secondi dalle carte. Ho letto le carte. Beh, vi allontanate. 1200 euro, fammi 1200. Vedo molto negativo. Sì, io vedo molto negativo. Sì, no, io vedo negativa la tua situazione, caro amico mio. Molto negativa la vedo. D'accordo? D'accordo? Ah, Marco, provincia di Pesaro. Bisogna dire che l'altra era più sofisticata, però c'aveva il centralino, Don Nascimento, poi ritelefonava, eh? Allora, mancano ancora 45.000 euro. Ma dice, io sto male, sono malata. 45.000, altrimenti morirei, d'accordo? E questa gli ridava, capito? Marco, vai, dimmi. Era più sofisticata. Ciao, ciao Giuseppe, ciao Davide. Io volevo sapere, volevo capire una cosa. Allora, chi va prostitute, c'è rischio che gli viene sequestrata la macchina, tutte queste cose. Sì, c'è l'auspicio, questo, no, il rischio. L'auspicio, sì, c'è. Sì, sì, okay. Ma che auspicio, ma che cazzo per fermare, dici, dai, per su. Il racket, ok, chi c'è sopra? Ma non fermi nulla, fai solo, metti nei guai solo delle persone che magari hanno la famiglia a casa. Bravo. E uno si vuole fare una scopatina con una mignotta e non se lo può fare. L'auspicio, l'auspicio, allora, sequestro del mezzo, multa a casa, foto, e poi mega foto che viene appesa in tutta la città, tappezzata. E poi, ok, questo per risolvere. Dice, questo signore va a prostitute, capito? Ok, bravo, ecco. Ok. E fin lì ci siamo. È una cosa che a favore o contrario, ognuno la pensa. E poi, okay. Allora, per quale motivo io vado al mare, vado alla fiera, vado in giro per strada, ci sono questi ragazzi di colori che vendono cose griffate, ok? Vai alle fiere, non pagano la piazzola, a differenza di chi ha di fronte che vende lo stesso oggetto, più caro, ci paga le tasse e tutto. E a questi no, a questi allora multiamo anche loro. No, ma quello che c'entra, sono paragone, due cose diverse. Multiamo però, chi ma acquista, sì, ma no, multiamo chi acquista da loro anche. Chi acquista la borsetta. No, ma che certo. Tu dici, se uno dovesse accettare lo stesso principio, bisognerebbe multare anche quelli, esatto, che comprano le cose contraffatte, certo. Danneggi le aziende, puttanata quella, puttanata quest'altra. Bravo, danneggi le aziende se vendi giacchetti griffati, danneggi le aziende. Sì, no, ma non c'è dubbio, ma però è ridicolo, no? Cioè, effettivamente potrebbero essere multate le persone. Io l'ho comprato qualche volta, ho comprato delle cose da per strada da questi qua. Me ne sono pentito dopo, perché robaccia. Però, sapevo che eri intelligente, dai, infatti, poi dopo ti sei pentito. Marco, ciao. ciao, buonasera. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Bisogna fare dei rituali per far sì che non ti cacciano, bisogna fare dei lavori particolari. Cioè, capisci che uno si potrebbe inventare qualsiasi cosa. Qualunque. Cioè, gli mandi le cose, gli mandi, ovviamente spero che non ci sia nessuno che gli mandi, ma probabilmente qualcuno ci sarà, altrimenti questo come campa. Appunto. 1200 euro per far sì che le due persone si riavvicinano, no? Poi comunque... Però fai il rituale. Fai il rituale. Il rituale, la magia rosa, rossa, minchia, come si chiama? Io vedo molto negativo. Io vedo molto negativo. Molto. La tua situazione vedo molto negativo. Io vedo molto negativo. Ma cioè, in tre. Sì, ti devo pagare. Sembra un batantuono. Allora, io dico una cosa, cioè, ragazzi, adesso veramente stiamo scherzando. Questa è una truffa. Adesso non sarà una truffa nel senso classico del termine. Ma uno che in tre secondi al telefono, in tre secondi. Beh, tre. Però ha visto negativo, Sì, d'accordo, ma come cazzo ha visto negativo? Da che gli ho detto due nomi falsi, peraltro. Due cioè, nomi poi hai sbagliato anche la seconda volta. Come si chiama? Franco? Siccome non era Antonio prima. No, era Giuliano, sì. E quello manco, figura che cazzo gliene frega. Ma chi gliene frega? Quello manco se ne ha buttati. Uno l'ha chiamato, gli ha detto: come ti chiami? Franco. E l'altro? Giovanni, anni 45. Aspetta un attimo, è andato a pisciare. E poi 40 secondi. E poi è tornato. Sì, io vedo molto negativo. Come ha fatto a vedere? Come no, scusi, le carte, no? Ho messo giù le carte. Ma è evidente! Ma è chiaro! No, non dico che sia come. No, è evidente! Ma è evidente, cazzo. Diana da Roma, dai, Diana, vai. Diana. Diana da Roma, dai, forza, vediamo. Pronto? Vediamo se ci fai divertire di più del mago là, del maestro Ruggero. Pronto? Vai. Sì, dimmi, ma è. Se, no, scusami, Diana, dimmi. Pronto, vedo molto negativo anch'io, vedo proprio negativo. Vedo molto negativo, esatto. molto. Dimmi, senti, dimmi. No, a me mi si stava all'estate l'orecchio intanto aspettare voi. Che devo fare? È una vita che funziona. Ma è una vita che funziona così, non rompere i coglioni, no? Chiamate tre minuti prima, non mezz'ora prima. Comunque, in ogni caso, volevo dire, Briatore, perché non fa un locale con i mostri? Perché tutti belli, tutti alti, 1,78? Vabbè, quella potrebbe essere un gobbo, un ciccione. Quella è un'idea, no? È un'idea. Ma sì, gliela dobbiamo dare. Poi c'ha delle idee sul bello. Lui è un cesso. No, un cesso, non esagerare, un cesso, dai, non esagerare. Ma dai, fit, tutti fit, lui c'ha la panza. No, ma fit significa adatti al ruolo, non significa no, fit viene nel da senso fitness, di fitness, vuol dire che devi essere palestrato, fisicato. Comunque hai dato una buona idea, locale con tutti i camerieri, ma sì, tutti i mostri. Facciamo lavorare anche i mostri, poverini, non ho capito perché devono lavorare. Potrebbe solo essere una belli. Grande attrazione effettivamente. Sì, sì, sì, sì, non sì dico di da Mantova, Donato da Varese, li metti tutti lì, li trovi lì e dici cazzo, guarda com'è mostruosa l'umanità, li metti là tutti lì. Ma no, mostruosi, però ci sono anche loro. Sì, no, poverini. Ma davvero fare un locale monster proprio, era un'ottima idea, forse. Guarda, non è sbagliato. Sì. Li metti lì, Donato da Varese, sai che c'è? C'è il cuore al vino, sai che c'è? Dici, ma l'avete visto le scarpe menù. Ieri? Ti porta il menù, ti porta il menù. Ma di chi? Le scarpe di chi? Come di chi? Di lei? Di lei chi? Lei chi? Lei mancano chi? I soggetti, i verbi. Lei no, chi? Come lei chi? Quella di cui si parlava, Don Nascimento. Ah, sì, Don sì, la signora Marchi. Dai, io l'ho trovata fantastica, 74 anni, capello rosso fuoco, scarpa tipo schiava, slave, col sacco alto, cioè per me è veramente il top è lei. Incredibile. In che senso il top è lei? Ah, che è brava, è una ancora coraggiosa, vuole ancora lavorare, si rimette nella lavorare. Nicchia. Lavorare. Lavorare mi pare un po' eccessivo. Lavorare. Vabbè, ma è normale. Adesso, ma su, ognuno fa quello che Parenzo può. Parenzo gli vorrebbe vita. Impedire sì. addirittura di lavorare. No, cioè. Perché la a dignità, chi? Questa sconosciuta la chiamerei. Ecco, dignità, questa ma sconosciuta. Perché no, però come dice il Cruciani, ci sono quelli che si fanno fregare. Nella vita c'è bisogno di tutto. Allora, sicuramente c'è gente che si è sicuramente c'è gente che si è fatta fottere. Lei, però, non ha chiesto scusa nemmeno per un secondo una volta. Non è che ha detto chiedo mi mente scusa. Ho fatto una cazzata. Ma il mago che hai chiamato ora, quello c'è molto negativo. Ma lì siamo. Ma capisci che ci sono persone in stato di bisogno, in stato di difficoltà, no, che non sanno dove sbattere la testa, non hanno strumenti culturali che ha lei, e chiamano anche quel pirla del maestro Ruggero, che magari dice è molto negativo e ti sgancia, ti chiede 1.000 euro. Oh, ragazzi. Questo te fa la prima telefonata gratuita, quindi io non mi lamenterei. Poi se lei ti gratuita per portarmi più sfiga ancora, perché francamente, ma nessuno vuol sentirsi dire, però scusa, nessuno vuol sentirsi dire che le cose vanno male, se non da un amico o da persone titolate. In genere tu vuoi essere rassicurato. Queste persone non rassicurano, perché più delle volte ti dicono, anzi, no, vedo la situazione, la vedo brutta, nera. Male, sì, male. La vedo molto negativo. Eccolo là, con quella voce poi da gufo, malefico. Ma qua è negativa. Tu sei negativo. Ma, scusa, Diana, e dunque? Dimmi. Non ho capito, dunque? Diana, la dea della caccia. Io volevo dare un suggerimento a Briatore, di fare Briatore. Sì. Fare Briatore. Comunque è una voce da... Bella, una bella voce, Diana. Molto bella, sì. Secondo me no. Sei una gran figa anche, no? Così per dire, lo dicevo. No, direi così. Di sì, non mi lamento. No, non è una gran figa, però normale. Però dai, è una voce molto, molto attraente. Dai, bisogna molto... rimorchiare il radio alle 20.05. No, altri ma posti dicevo dove... così, a passare, tra un intervento e l'altro. Scusa, ma invece di sentire Mauro da Mantova, che amico tuo, eccetera, una volta che sentiamo una voce beh, figa al telefono, fammi stare un secondo con una gran figa al telefono, no? Almeno invece questo. Vedi che poi sfonda chi ha la voce alla Vanna Marchi, perché evidentemente bucava anche il cervello, non solo i portafogli. A proposito, fermi tutti, collegamento di nuovo con Vanna Marchi per sapere quale sarà la pena per chi vota no. Vanna? Pronto? Pronto? Radio 24, allora! Sì. L'asta di oggi è comitato per il sì al referendum 44.000 euro, no, era d'accordo? Erano 42 prima. Abbiamo aumentato perché c'è l'inflazione, vaffa. Se voti no, ci saranno cavallette, morte dei primogeniti, locustre, no, pidocchi, raucedine, emorroidi. No, pure le emorroidi. Scalfari a casa tua che legge la Costituzione italiana. Beh, dall'articolo 1 al 138. Quello, e in effettivamente. Più, se dovesse vincere il no, la pena più grave. D'accordo? Sole 24 ore gratis, con obbligo di lettura ad alta voce mentre la famiglia è riunita per la cena. D'accordo? E vabbè, e questo è tutto cose gravissime, ma siamo sicuri che ti succede tutto questo, signora Marchi? Pronto. Sicuro che... Ah no, è successo? Si è spento il collegamento. Ciao Diana, ciao Diana. Ciao. Ciao tesoro. Caterina, provincia di Monza, vai. Forza ragazzi, forza. Caterina. Sì, ciao. Pronto? Dimmi, dimmi Caterina, dimmi. No, io volevo solo sapere, vabbè, a parte il fatto che non ti assicuro che per nessuna donna è piacevole sentirsi dare della puttana. Cioè, non ho capito, per una donna, nessuna, per una donna, no, nessuna, per un... ascolta bene, nessuna donna ha piacere a sentirsi dare della puttana. Ma dipende come glielo dai. Guarda, ci sono due miei amici che mi sono venuti a trovare. Una è una ragazza, un avvocato cassazionista. Però che è venuta. Ma cosa c'entra? Sentiamo cosa dice. Aspetta, aspetta, fammi sentire prima Caterina. Tu puoi dare della puttana a qualcuno e questa dovrebbe essere quasi contenta. E magari io non posso dare del frocio, del culatone, della checca, non so. Ma guarda, che per me non c'è, allora guarda questa, che per me non c'è problema. È un'offesa, cioè questa, non ho capito. Innanzitutto, allora, ci sono due cose molto distinte. Se tu dai del frocio, ma qualcuno. Qui c'è qualcuno che dice che è un gran complimento. Ma certo che è un gran complimento. Se dici troia e puttana ad una donna e glielo dici. E glielo dici. Un gran complimento. Ma che chi è sessualizzato? Ragazzi, non importa il nome. Ragazzi, dovete stare fermi e calmi perché comando io qua dentro. Allora, non è che uno si può inserire a cazzo di cane con una voce di arriva. Quello dice chi è un vabbè, mercato ormai. Non mi interessa chi è. Che vuole dire questo signore? No, che dare della puttana a una donna in un determinati contesti può essere un gran complimento. Un bravo, top. Assolutamente, complimento top. Cioè, a me se tu... tutti anzi, pazzi. Anzi, può anche generare delle reazioni simpatiche. Sì, può essere un elemento di complicità sessuale per aumentare la carica erotica. Ragazzi, ma dopo tre anni che magari stai con la stessa donna, se non le dici gran troia, puttana, eccetera, eccetera, ma come te la scopi? Sì, un cioè, detonatore di libido. Se ma mi guarda che non è. Ma che uomo di cacca sei? Ma io abbastanza sono messo. Siete degli sporcaccioni schifosi. Guardate quelle donne che ti hanno conosciuto. Ma sì, ma infatti, tanto, tanto di cappello, veramente, a chi ha avuto Caterina, il coraggio ma... di stare insieme oddio, a te. Chi ha avuto il coraggio, chi ha avuto il coraggio. Ma cosa vuol dire? E vabbè, ma chi se ne frega, ma chi te conosce? Ma non hai rispetto per le donne. Ma che dici? Ma dici delle follie? Io spero che qualcuno un giorno, sì, un che gruppo facciano? Di donne... Mi picchiano, che fanno? Magari venissero qua sotto. No, però, io non lo spero. Gruppo di donne, che dovrebbero fare gruppo di donne? È la tipica che in privato si fa chiamare le piace, secondo me. Sì. Allora, Menarti, bene, le donne che mi menano mi mancava. C'è un signore che qui ti vuole dire una cosa, Caterina. Qual è la cosa? No, dicevo, Caterina incarna un po' il prototipo di donna che dice di no perché il moralismo, il bigottismo che la porta a dire in pubblico, però poi in privato fa ben altro che sentirsi chiamare in quella maniera. Ma guarda che è diverso. Un conto è avere una buona sessualità, anche libera. Ma non stiamo mettendo, È un conto, no, è un conto essere chiamata puttana. Puttana che è la prostituta che viene insieme a altre persone. Non è la stessa cosa. Ma che dice? Ma non è vero, ma non è vero. Ma sì, non ma è vero, sicura, ma è una ma cazzata. Ma che ma se, scusami, ma allora Caterina. Vocabolario Caterina, se io do, ma nell'accezione. Nell'accezione . Non è nel senso letterale del termine. Se io dico ad una donna che bella puttanella che sei, no? Come si dicono due uomini in privato, per esempio al Grande Fratello, facciamo questo esempio così recente, e tutti dicono maschilismo. Io sono partito da questo, naturalmente. Poi ci sono vari modi in cui uno può dare della puttana ad una donna. Quando uno dice, mazza, quella è veramente una bella puttanella, io uso il maniale... Ferma un attimo, uso il modo gergale che usiamo spesso, è inutile dirci cazzate, dai, magari Parenzo un po' più precisino lo usa meno, però anche lui l'avrà usato. Guarda che bella puttanella quella, è un complimento, non è una cosa per dire che è una disgraziato, che è una poca di buono, è un complimento, perché le vorremmo tutte così, sessualmente disinibite, libere, sessualmente potenti, sessualmente forti, sessualmente libere, così le vorremmo tutti, cazzo! Ma perché siete ipocriti? Perché siete ipocriti? Ma perché non dici mi piaci, stai sessualmente disinibita, una persona che con la quale fare l'amore a fantasia, invece di dare ma della sì, ma perché? Cioè, ma no, stessa, ma ho capito, ma non te. Nel senso letterale del termine, puttana, perché sei fissata su questa cosa? Ma è quello che la stai chiamando. Guarda, io sono sicuro che ma non nel senso letterale del termine, ma scusa, ma se la stai chiamando così è senti, così. Guarda, una mia amica mi ha scritto non una cosa, la tizia al telefono non ha idea di quanto sia piacevole sentirsi dare della puttana mentre si è a letto. Questa è la realtà. Una donna, una poveretta. Mia amica. Ma che poveretta? Ma che poveretta? Ma poveretta, ma digli di trovarsi un uomo che gli dica ti amo. Tesoro, se è un amore che gli dà delle parole gentili, sì, che gli dica anche mi piace tantissimo fare l'amore con te, o anche magari sia, ma non darsi il passante puttana, numero due voleva aggiungere qualcosa. Voleva aggiungere numero due, passante numero due, una persona che ha anche una sua laurea. No, una no, sua però storia, non voglio dire nemmeno chi è. Passante numero due, sì. Che dice? No, no, dico che è ipocrita. Ipocrita perché è il top, sentirsi dire, secondo me, è accompagnata anche da un bello sculaccino. Vabbè, ma quello, questo è un altro evento. Sei questo scemo anche tu, però. Ma questo è un altro evento. A dare corda al maiale di Milano. Sei scemo anche tu, però. Il guru Cruciani ha ragione. Fermi. Mamma mia. Mi deve pagare. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Pubblicità. La Zanzara. Propongo una commissione contro l'odio. Io odio quelli col SUV che si mettono a culo delle macchine davanti con dentro la nonna che accompagna il bambino a scuola. Odio il SUV attaccato al culo. Una militante del PD che passa al mondo del porno? Ma io, se fossi il padre, mi vergognerei tantissimo se scoprissi che mia figlia è una militante del PD. Cruciani, somaro, ma se sulla metropolitana non intervieni ad aiutare quando pestano uno, ma secondo te, mezzo uomo, intervieni a denunciare un mafioso che è dentro nell'armadio? Ma stai zitto e vergognati, dici tutto il contrario di tutto, somaro! Signori miei, è ufficiale, è tornato Parenzo col coltello tra i denti, è sceso nell'arena a battagliare. Così ti vogliamo, Parenzo, amico mio! Dopo mesi di anestesia totale, siamo al top. Sì, io vedo molto negativo. Siamo al top, siamo al top! Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Mi deve pagare. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Allora, ragazzi, intanto andrei a Roma da Massimo, eh. Massimo, vai. Massimo, dimmi. Non serve, intanto complimenti per la trasmissione. Non ce ne frega nulla, dimmi. Volevo semplicemente fare dei complimenti a Cruciani. No, a me non piacciono i complimenti, non me ne frega niente, dai. No, sono sintetico. Si sente pure male, dai. Ha uno spessore. Ma non ho nessuno spessore culturale, zero proprio. Diretta. Quindi per qualunque individuo non è facile, rendere vita molto difficile. Vabbè, Massimo, dai, forza, andiamo avanti, forza, dai, su. Sì, no, mi volevo semplicemente riallacciare all'episodio che lei poco prima... No, lei no, tutto sbagliato, lei, le cose... Accidenti, vedi. Dai, allora? No, dei sensitivi, no? Dei sensitivi, che succede con i sensitivi? Maghi? Siamo un periodo piuttosto critico, anni 90, quindi è passato un po' di tempo, no? Negli anni 90, eri un periodo critico, io traduco, perché spesso ho detto stai parlando a mezza bocca, sembra che ti sei fatto 40 canne, dai. No, assolutamente. No, sono in macchina, mi sono un attimo accostato. Però parla un po' più deciso, dai, forza. Insomma, vabbè, negli anni 90 è passato un periodo complicato e ti sei affidato a un sensitivo pure perché, tu. Perché ho creduto a un sensitivo. Hai creduto a un sensitivo? Ho creduto a un sensitivo, sì. E per carità, ognuno può credere a quello che vuole, pure agli asini che volano, però va bene, affidarsi a un sensitivo. Questo è un periodo di estrema fragilità, particolare. Ti facevi di cocaina, che facevi? No, assolutamente, mi ha fatto credere tornasse una persona con la quale c'era un rapporto sentimentale. Io ho creduto a lui. E poi comunque cosa lui diceva, però ero diventato vittima di una persona per circa un anno. Ma quanti soldi ti ha spillato? Non mi ha spillato soldi. Beh, allora un coglione, economico assolutamente no. Però mi aveva strumentalizzato. E a che serviva questo qua? Non ho capito. A che gli servivi se non mollavi il quattrino? Ma sai, ogni volta capitava che le sigarette oppure la colazione, cioè la sorta, certo, Parenzo, che ci sono le cose più strane, le storie più strane. Assolutamente. Se non gli ha chiesto i soldi, però no, ti assicuro che mi ha detto lui praticamente 6 mesi non devi chiamare questa donna, io l'ho fatto. Ma non ti ha chiesto una lira, poi sentito. Non mi ha chiesto soldi. Vabbè, ma ha ottenuto degli effetti questa cosa o no? No. In parte. Ora però va bene tutto. Io, mi fa piacere che mi hai chiamato, eccetera, eccetera. Perché allora tu hai. No, per carità, lo dico io. Cioè, mi hai fatto piacere che mi hai chiamato. Cioè, tu ci hai raccontato una storia. Sono stato vittima di un sensitivo, ma non sei stato vittima per niente. Non hai tirato fuori un euro. Sei stato un minimo, magari soggiogato. Comunque ti affidavi a lui, però non è che. Cioè, non è che hai mollato dei soldi, non è che ti ha turlupinato questo qua. Cioè, dov'è il raggiro? Un profilo economico. Dov'è il raggiro? Dov'è il raggiro? Scusami, in questo caso. Il raggiro è che ti ha strumentalizzato comunque psicologicamente. Ma ho capito, ti sei fatto strumentalizzare, amico mio. Ti sei fatto, perché poi c'è sempre la vittima, eh. C'è la vittima spesso, non è solo la vittima, è anche un po' partecipe del danno, partecipe del delitto. Sì, sì, ma perché ciao Massimo, perché ciao. Grazie. Ciao. Allora ragazzi, nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di quelli, dei condannati cui hanno tolto il vitalizio, tra cui per fortuna Toni Negri, Previti e altri. Allora, questi qua però non mollano e fanno oltre che ricorsi e vogliono la riabilitazione, perché questa legge che toglie il vitalizio ai condannati con pene superiori ai 2 anni, caro Parenzo, la puoi aggirare, pensa che geni, no? Cioè, già perché quelli con pene sopra 2 anni gli togli il vitalizio e quelli che hanno 1 anno e 9 mesi no, già è una follia, o 1 anno e 11 mesi no, già è una follia la legge. In più tu la puoi aggirare, perché basta che ti fai riabilitare, la riabilitazione, e allora probabilmente riottieni il vitalizio, è già successo. Allora, uno di quelli che ha che qui hanno tolto il vitalizio è un ex medico, credo, che si chiama Del Barone, anche un signore piuttosto anziano. Io farei una telefonatina a casa di questo tizio, sempre se è ancora vivo, il signor Del Barone, ex deputato, credo per qualche legislatura, prende credo 2.200.000 euro di vitalizio. Pronto? Sì, Del Barone? Sì, eccomi. Buonasera, qui Radio 24, come sta? Non benissimo, dice lei, no? No, però lui dico, mi difendo. Si difende, però si difende, ma le hanno tolto 2.000 euro, così. Una vera porcheria. Io mi auguro di tutto cuore che le mettano per la formazione dello Stretto di Messina, così almeno sarò servito all'Italia. Cioè, in che senso, scusi, signor Del Barone? Cioè, se versano questa cifra che mi hanno rubato per fare più presto il ponte di Messina. Però scusi, mi immagino che lei sia favorevole al ponte sullo stretto, allora. Per l'amor di Dio, le sto dicendo che anche quella è una delle più grandi puttanate. Io sono favorevole a far rifare le scuole, a far rifare le strade, a eliminare le buche. Quindi quando sento parlare del ponte di Messina ho l'impressione che mi venga il mal di mare. Però con 2.000 euro si fa un pezzo del pilone, un pezzettino del cemento. Naturalmente lo si fa in 200 anni. Però scusi, lei è stato, scusi Del Barone, lei è stato condannato a 2 anni e mezzo per peculato, mi sembra, no? Perfettamente, sì. Il vitalizio cessa praticamente, oltre i 2 anni di condanna. Ma lei farà ricorso? Beh, adesso io domani viene il mio avvocato e ne parliamo un pochettino. Però l'intenzione è quella di fare ricorso, Del Barone. Se io faccia qualche cosa, questo è matematicamente sicuro. Solamente ci sono 2 strade, la strada della riabilitazione o la strada del ricorso. Però scusi un attimo, dunque sicuramente lei si oppone a questa cosa, su quello non c'è dubbio. Matematico. A parte che fatto è ingiusto il vitalizio, invece magari lei pensa che... che il vitalizio sia giusto o ingiusto, non mi tocca a me decidere. Beh, ho capito, lei tanto... Quante pensioni prende lei, Del Barò? La mia, quella di medico. Ho capito, questa qua più quella di medico. Esattamente. E perché non si può accontentare di quella di medico, scusi? Perché questa l'ho pigliata per 15 anni, non vedo perché la devo lasciare a 90 anni. Beh, ho capito, 15 anni, 2.200, ma capisce? Ma che ci fa con 2.000 euro al mese, lei, in più? Che ci fa? Oh, madonna mia, che ci faccio? Consideri per un secondo, le parlo della mia famiglia. Sì. Sono sposato, 2 figlie, 2 generi, 5 nipoti e 8 pronipoti. Beh, certo. E vedrà che i soldi per questa gente si possono spendere con una certa facilità. Cioè, lei dice che alla fine questi soldi di 2.200 euro di vitalizio servono per mantenere tutta sta gente, o comunque per dare un contributo, no? Sono tutti spesi in maniera familiare. Ma perché non lavorano questi qua? Scusi, le figlie, i generi. Ma lavorano, come non lavorano? Ma lavorano tutti uguali. E allora perché? Ma perché il patriarca non può stare a fianco in una qualche maniera? Cioè lei dice, io sono il patriarca. E perché devo pagare io il patriarca della famiglia sua? No? Ma dica a questo imbecille che parla che si stia zitto. No. E che cosa vuole parlare se non sai i fatti quali sono? Io mi sento colpevole. Io mi sento non colpevole. No, intanto stiamo calmi perché io sono il passante parente. Allora, primo. Non capisco perché io debba pagare il fatto che lei è patriarca, che me ne frega a me, perché io che sono un cittadino italiano devo pagare i soldi al patriarca? Oh, ma che sta facendo di pagare i soldi al patriarca? Li do in maniera tale e da dividerli in una qualche maniera secondo le necessità che possono sorgere. Beh certo, una famiglia numerosa, famiglia numerosa, non c'è dubbio. Ma perché io cittadino italiano devo tollerare che lui dà i soldi alla sua famiglia numerosa? Ma che me ne frega a me, scusa? Beh, questo signore che parla là non ci si può parlare. Io gli domando, ma perché deve essere dato un vitalizio a tutti meno che a me? Se si scopre che il condannato che ha pigliato qualche cosa di professione miliardario o milionario, allora ci sta bene levargli il vitalizio. Ma nel mio caso, modesto medico con una pensione non da fame ma neanche da danza. Quanto prende la pensione da medico? 2.750. Beh, 2.750 più 2.200, alla fine lei becca 5.000 euro, diciamo, no? Più o meno al mese. Matematicamente è questa la cifra. 5.000, com'è? Allora, scusi, matematicamente, non prende il vitalizio? Amico mio, farà il patriarca con quei 2.000 euro e non con i 2.000 euro. No, 2.008. Basta. Va bene, arrivederci, Del Barone, arrivederci, grazie, arrivederci. No, ma è stupendo, cioè praticamente il vitalizio a questo signore che si chiama Del Barone, che ha fatto qualche legislatura e prende 2.200 euro che non meriterebbe, al contrario di quello che dice Parenzo, non meriterebbe, no, io perché il vitalizio dico? Andrebbe cancellato. Vitalizio? Perché cancellato, vitalizio? Perché hanno versato dei contributi che hanno deciso loro, che sono sicuramente superiori come contributi, anche come risultato finale, cioè la pensione superiore rispetto ai contributi, facendo il paragone con tutti i contribuenti italiani e con tutti gli altri pensionati italiani. Basta dunque, adeguare quella sono pensione dei privilegiati, degli altri, no? Sono privilegiati, poi basta questo qua... adeguare la pensione, il vitalizio dei deputati, che non andrebbe più chiamato vitalizio, infatti. Li ma... spende come da patriarca, con tutti quei nipoti che ha, con per tutta la famiglia. Ma almeno sta zitto, dimmi, mi servono? No, perché c'ho la famiglia numerosa. Ma dai, su. Giuseppe, provincia di Ancona, dai. Anch'io ho la famiglia numerosa. Ciao, dai. Giuseppe. Allora tu che ciao, dovresti Giuseppe. Fare? Quattro vitalizi. Ma hai distorto la domanda. Dimmi, Giuseppe. Bravo nel fatto dei vitalizi perché fanno schifo sta gente. Ti volevo dire una cosa. Ieri sera il discorso di Scalzi, come si chiama quel giornalista? Non lo so come si chiama, non mi interessa come si chiamano questi personaggi, a me non mi interessa. No, l'avete criticato. Ma, io non ho criticato nessuno, me ne sbatto i coglioni. Cioè, no, ho preso una voce qualsiasi, però, per dire che chi critica Benigni dicendo che prende i soldi dalla RAI ed è per questo che sceglie il sì è patetico. Che l'abbia detto quello che quel giornalista o presunto tale di cui parli tu, che l'abbia detto qualcun altro, non mi interessa, è uguale, cioè non cambia le cose. Molti lo dicono di quel fronte lì. Vai Giuseppe, dimmi. Sotto i leccaculi, diciamo. Ma quali leccaculi? Che c'entra i leccaculi? Io te volevo dire un'altra cosa. Stasera sei sceso troppo in basso. Io ti ammiro qualche volta, ma con le donne sei sceso troppo in basso. No, non ho capito prima la cosa delle caculi, scusa, forse si collega, però la cosa delle caculi non ho capito. Voglio dire, cioè non ho capito chi vota sì è un leccaculo. Quelli di parte, chi vota sì è leccaculo. Oh. Come non ho capito. Ma non hai capito un cazzo tu, questo è il punto, non capisci un cazzo, questo è il problema. Ciao. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. È in pieno centro o fuori dal centro? È nuova, da rimodernare. La senti giusta da subito o dopo averne viste 100? È piccola, ma ti farà sentire grande. Se trovi la casa giusta, oggi c'è un mutuo per non fartela scappare. BNL ti dà una risposta certa per l'acquisto della tua casa in solo 5 giorni. BNL Gruppo BNP Paribas. La banca per un mondo che cambia. Messaggio pubblicitario, finanziamento soggetto ad approvazione, fogli informativi su bnl.it. 100 capolavori per raccontare Zan Domenichi, uno tra i grandi pittori italiani dell'Ottocento. L'impressionismo di Zan Domenichi, In mostra a Padova, Palazzo Zabarella fino al 29 gennaio. L'impressionismo di Zan Domeneghi. Ti aspettiamo. Ehi, socio Conad, cosa fa lei per le famiglie, per farle risparmiare davvero? I bassi e fissi. Cioè? Cioè pasta, farina, latte, uova e tantissimi prodotti indispensabili sono a prezzi bassi e fissi fino al 31 dicembre. Lei è il mio punto fisso. Ehi, io sono Conad. Conad, persone oltre le cose. Cerchi credito per la tua azienda? O cerchi un modo per far crescere i tuoi risparmi? La tua soluzione si chiama borsadelcredito.it, il primo portale per il credito alle imprese. Su borsadelcredito.it puoi ottenere un finanziamento per la tua azienda in soli 3 giorni, senza costi nascosti. O puoi investire nelle aziende sane con la massima sicurezza, ottenendo un rendimento di oltre il 5%. Resta o richiedi credito. Tutti ci guadagnano con borsadelcredito.it. Messaggio promozionale che non rappresenta sollecitazione all'investimento o all'acquisto di prodotti finanziari. Chiedilo a Visiran. Bentrovati, ecco la domanda di oggi. Nella nostra azienda vorremmo diminuire il numero di veicoli e aumentarne la condivisione. Esiste un sistema efficace? Risponde Mauro Leandri, responsabile commerciale di Visiran. Oltre all'esatto monitoraggio di posizioni e percorsi, il sistema consente la prenotazione del veicolo e la condivisione del mezzo attraverso il semplice uso di una tessera personale di identificazione autista. Non saranno più necessari report cartacei o fogli di marcia. La gestione del chilometraggio e dell'assegnazione della vettura potrà avvenire in modo totalmente automatico. Vai su radio24.it, entra nella sezione Chiedilo a Visiran e mandaci la tua domanda. La zanzara. Lavendo la cannuccia, innanzitutto è una cannuccia... Lei c'ha la telecamera davanti e sta... C'ho qua? Quella là, sì. Allora, innanzitutto questa è una cannuccia che viene usata dal dottor Costanza e già questa è una garanzia, giusto? Ha una forma un po' particolare, l'hanno fatto così in maniera tale che uno beve tranquillo senza aver paura che l'acqua esca di fuori, no? E poi come facciamo a bere senza cannuccia? Anche perché la bottiglia può essere inquinata, può averla toccata qualcuno. Uno può averla aperta senza mettere i guanti, di conseguenza può essere piena di microbi. Quindi usate questa cannuccia, ve lo consiglio Vanna Marchi, d'accordo? Quanto la vende? 50 euro, va bene? Per la salute. Cioè, se uno vende la cannuccia a 50 euro, figuriamoci altre cose, no? Figuriamoci... Hai capito com'è subdola? Per la salute. Certo. Cioè, non le è bastata la lezione, per la salute, ha detto. Cioè, beh, roba incredibile. Immagina nei momenti di splendore che cosa ha fatto. Adesso poi, no, era lì un po' timida, non ci credeva molto anche lei, ma le è bastato un attimo per venderebbe qualunque cosa, qualunque cosa. Allora, Stefania da Bari, vai Stefania, vai. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Allora, io volevo semplicemente scrivere la mia opinione in qualità di donna sull'argomento che proprio hai proposto tu, Cruciani, in no? In qualità di donna sull'argomento proposto da me. Ma c'è ancora una donna vicino a te, Parenzo? No, no, era un avvocato cassazionista. Che è andato via. Moglie, amica che del, è andato via. Moglie, dell'anonimo. Allora, ti parlo in moglie qualità di moglie, non di amica, lo so. Non sono cassazionista, ma avvocato. Comunque, no, la persona che era qua, ho detto, è la compagna o moglie, non lo so, okay. Del signore misterioso di Napoli, anche lui allora... avvocato, che ha parlato... Forza, dai ragazzi, forza. Niente, allora, che mi io devi volevo dire? Semplicemente dire questo, che chiaramente la tua affermazione, che io ho compreso e condivido anche, sinceramente, sì. Non tiene però conto di un aspetto, di della cosa? Diversità delle donne, cioè, e allora, premesso che nella diversità vita privata anche a donne. Me va bene, anche a me va, non solo va bene, ma mi piace sentire. Ma che vuol dire? Spiegami, cose. Cosa vuol dire? E cosa come vuol dire? Dai, è nel privato, cioè mi piace. Ma nel privato stiamo parlando. Ma stiamo. Ti piace che se qualcuno ti dà della troia nel privato? Cioè, non se qualcuno, vabbè, se mio marito. Vabbè, qualcuno, scusata. Tuo marito, tuo quindi, amante, sì, tuo fidanzato, sì, beh, certo, nel passato, è quello che. Cioè, mi piace, cioè, se ti non dicono solo mi piace, brutta... ma ne ho bisogno perché mi serve anche a me per accendermi, insomma. Capito, Parenzo? Per cui. Non discuto di questo, dico semplicemente che è un argomento che forse il fatto che queste signore chiamino in diretta per svelare la signora sta dicendo la loro intimità. Non interessa svelare cosa piace, stai dicendo che tuo marito se ti dice puttana, troia, a che serve nascondersi dietro? È giusto, ma penso che critica questa cosa. A te piace dirle, a me piace sentirmele dire, è normale. A te uomo assolutamente piace dirle, a me donna piace sentirmele dire. È normale. Vabbè, allora, il problema certo non è questo. Quello e che magari io volevo sottolineare è questo, che un conto è sentirsele dire in privato, altra cosa è magari se cammini per strada, a me quando succede che camminando per strada sento degli uomini insomma che zittiscono, mi fa più piacere che sentirmi dare della puttana nell'accezione che ma non è che io non volevo intendere questo, che uno per strada dice mazza la troia puttana, non è quello il punto. No, però vedi, io stavo parlando donna, ragazzi ma però intendiamoci sensuale. Io stavo parlando di conversazioni tra due uomini, tra più uomini, in cui quando si usano certe parole nei confronti di una donna, cioè quella è una puttanella, quella è una puttana, quella è una troia, quella è una mignotta, quella fa questo, quella è una porca, ammazza che porca, non è una cosa insultante, è un grandissimo complimento a persone che hanno una sessualità esuberante come si sente che hai tu, perché tu sei sicuramente a letto, secondo me sei una bomba, cioè che ti devo dire? Sinceramente non voglio dare questo tipo di informazione perché non è questo. Una che ti piace, che il marito dice questo e quest'altro, secondo me a letto. È chiaro che sono molte le donne ad essere disinibite, non solo quelle che lo fanno per mestiere. Ma non c'è niente di strano, infatti, deve vantare di questa cosa qua. Però tu non tieni conto se a una donna fa piacere o meno, è questo. Ma non me ne frega niente, io lo dico in senso positivo, per cui non lo dico in senso negativo. Vabbè, a me basta, aperto al dialogo, non te ne frega niente. A me basta, di ciò che ma pensa no, ma l'altro. se pensa che sia un insulto, pazienza, e che devo fare? No, io lo intendo come sia un insulto, complimento, però non è proprio gradevole. Ma se ti dà fastidio, pazienza, me ne farò una ragione, sai quanta gente pensa che io dico delle cose fastidiose, ma ne faccio una ragione, altrimenti mi dovrei suicidare. Ciao. Grande ritorno alla Zanzara, Parenzo. Grande ritorno. Secondo te chi è tornato dopo tanto tempo? Chi è tornato? Guarda, tremo perché escludo che tu abbia avuto l'intuizione di chiamare il professor Massimo Recalcati, ad esempio. No, anche perché non oggi è mai stato alla Zanzara, credo. Un prezzo meraviglioso sul cosiddetto supposto tradimento di Benigni, un pezzo molto bello. Dubito che tu abbia chiamato il professor Michele Ainis, ad esempio, altro editorialista importante di Repubblica. No, non credo. Dubito altresì professor che tu Nemmeno. Abbiamo chiamato il professor Ricolfi, come dubito altresì che tu abbia chiamato ad esempio il grande Luigi Ferrarella del Corriere. No, ma che c'è? Quello è un giornalista che svela? Che oggi ha raccontato il caso di Bologna, la lezione degli studenti, delle cose interessanti. Siamo qui con il vero paladino dell'urino terapia in Italia. Ah, ho capito. Beve il piscio. Così si dice, beve, come cazzo si dice? Non mi ricordo più. Ha bevuto nel passato il piscio, cioè ha fatto l'urinoterapia, altro che la Brigliadori. Il dottor Jean-Paul Banoli, buonasera. Buonasera Parenzo, buonasera Giuseppe. Come andiamo? Che succede lì? Che c'è il cane? L'urinoterapia è la più antica tecnica di medicina naturale, tant'è che ne parla anche nella Torah, cioè l'Antico Testamento. Capito, suggerisce di utilizzare la propria urina piuttosto che darla in giro. Per cui quando l'hai fatta l'ultima volta? Non era vero. Quello che viene asserito da chi la usa, che fa bene, è chiaro che ho dovuto provare e l'ho fatto per 3 anni e mezzo, con la constatazione che non sono mai stato meglio come in quel periodo. Capito, Maurizio, cioè più piscio da bere, tu dici, e più si sta meglio. No, non è così. Vabbè, ma è uno slogan, ci sono delle indicazioni ben precise. Da quanto tempo non lo fai? Sì, no, per carità, non vogliamo tornare. Da quanto tempo hai smesso? Ma sarà un 7-8 anni, però ogni tanto lo prendo quando ho bisogno di digerire bene. Quando c'è bisogno di digerire. Va bene. bene, giusto, fa un drink. Ognuno, ognuno, io non mi, mi rassegno. Se ti drinka con un prodotto alcolico che si rovina poi il fegato, io brindo con una soluzione che preparo io direttamente. Sì. E che ma è io non, con me guardi, non do più, siccome mi dicono che sono do giudizi. Cose, allora, andiamo eccetera. Su una cosa molto concreta. No, Parenzo, è meglio che ti vai a leggere un po' la tua Torah, dai, fa il bravo. Sì. Allora, sì. Giampaolo, guardi, tra i miei amici che tra i miei amici che seguono i dettami dell'ebraismo, le posso assicurare, professore, che nessuno, nessuno beve la propria urina. Questo lo posso lì è dire. Indicato ecco, che poi ci siano gli ortodossi che trasgrediscono i comandamenti della Torah, è un problema loro. Ho incontrato recentemente anche il dottor Bibi Netanyahu nel mio viaggio e le assicuro che non beve l'urina. Ma che le posso assicurare. Questo non lo puoi sapere, però. Guarda. Però io quasi sono qua non tanto diciamo, per parlare di urina che è allora, una cosa no, di riforme perché è venuto allora, uno, è venuto a parlare di riforme. Jean Paul, scusami un attimo, ci manca perché io mi occupo di medicina naturale che è una sì, è ecco. Una scienza che raggruppa tutta allora, la cosa voterà lei popolare? Al referendum bevitore professore cosa vota lei sì o no al referendum? Io sono per la Costituzione così com'è. Così no, com'è. Dunque votano. Mi state dando in continuazione dei buoni motivi. Votare io, sì. Sì, in continuazione. C'è cioè ogni giorno che c'è una dichiarazione di voto. Anche perché hanno fatto la furbata. Io che di sai, non sono non ho ancora deciso. Quindi. Scusa Parenzo. Sì, prego. Hai detto un attimo. Sì. Io quando vedo intanto, alla televisione gente che non sa spiegare sì. No, ecco, il problema sì. Agli altri sì, su quello sì. Che si vuol cambiare. Lei cosa fa? È chiaro si fa un goccetto. È chiaro, è chiaro. Lei ci beve su, capirlo, come si dice eh? In gergo. Lei ci beve su, non capisce, quindi ci beve su, non capisce. Allora, Jean Paul, diciamo, Jean Paul, scusami un attimo. Jean Paul, la francese lo chiama. Non so chi capiscia e chi non capiscia. Eccolo, questa là, buona, d'accordo. Però, Jean Paul, scusami un attimo. Io allora, va bene, però, per parlare di medicina naturale. Sì, aspetta, di medicina, attimo, certo. Ci andiamo mancherebbe, andiamo a una cosa molto concreta. Se a te dicessero, devi fare, per carità, Dio ce ne scappi liberi, devi fare la chemioterapia, come reagisci tu? Io non la faccio personalmente, ecco. Anche perché ho un caso in casa dove mia moglie si è ammalata di cancro e sì. Non ha voluto seguire le mie indicazioni. Le tue indicazioni cosa prescrivevano invece della chemioterapia? La nutriterapia, capito, che è una terapia fatta esclusivamente di prodotti vegetali crudi, frullati. Non ha seguito questa indicazione e com'è la situazione? No, non ha seguito neanche la bioelettronica perché la con una apparecchiatura particolare. E lasciami parlare. Giusto, se non giusto. Mi fai parlare non posso spiegare. Non ha seguito, non ha seguito la cosa prima che abbiamo detto. E quindi che è nutriterapia, è nutriterapia? È una terapia che serve a rinforzare la difesa immunitaria, detossicare l'organismo dalle sostanze tossiche certo. Che generano l'infiammazione, che è la matrice della cioè, sua moglie ha fatto le cure tradizionali, stress, quelle dell'OMS. Quindi stress, che è successo? Ed è lo stress ossidativo cellulare. Vabbè, che è la adesso, base del cancro. Allora, ha fatto le terapie ufficiali e quindi che è successo? L'hanno ammazzata in 2 mesi e mezzo. Morta in 2 mesi e mezzo. Morta in 2 mesi. Perché così ha dice. Fatto le cose ufficiali lei. Esatto. No, esatto. Dunque la chemioterapia uccide secondo te? Certo. Uccide. Perché dunque, non si può in un corpo certo. Che è sotto stress ossidativo, in acidosi, sì. Andare a inquinare con la chemio. Tu, che cosa hai detto prima? Che cosa hai detto prima della cosa là, della cosa energetica? Che cos'era quella roba? Ho parlato di bioelettronica, di ci bioelettronica, sono delle strumentazioni avanzatissime che in Italia sì. Stanno arrivando e che stiamo testando. Aspetta. Stiamo su, chi? Persone con i medici presenti ovviamente perché sennò cioè tu se mi stai dicendo problemi. Che c'è un team di persone che consiglia ad altre però è curiosa questa cosa qua è interessante cioè che uno si rivolge a voi a te alle persone che lavorano con te e voi dite voi la chemioterapia non la secondo noi non la dovete fare no giusto? Io dico semplicemente non si può disintossicare un soggetto che è intossicato e infiammato e in stress se qualcuno ti chiede se lei è medico con potere ossido riducente. Ma lei è medico? Errato, non si può. Ma lei è medico? Introducendo delle tossine. Ma lei semplice. È medico? Poi ognuno fa quello che medico? Crede perché il corpo è suo e se lo gestisca ma lui. Ma lei è medico? Io no, sono un giornalista investigativo come te, sono tuo collega. Allora, 40 anni di giornalismo. Però ma, scusami, allora, se lei è un giornalista, perché dice queste fregnacce? Non lascia perché che... io ho studiato la medicina naturale che è basata su principi. Se ti chiedono, Jean Paul, sembra che sia un francese. In realtà è un signore, si chiama Vanoli, che beve la pipì e che va in giro a dire che bisogna bere la pipì e non fare la chemioterapia. Ragazzi miei, su, no, Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul, Gocchier. Upa. Allora, Jean-Paul, tu di, se qualcuno viene a dire Je n'ai pas compris. E ti chiede. Tais-toi, taci. Se qualcuno Dagli noia. Se qualcuno ti viene a chiedere faccio la chemioterapia, sì o no? Ma perché tu gli dici a lui? Io non faccio un sito. Ma che allora che uno ha un sito gli chiedi la, della, di cose così? Allora c'è gente. Dici, certo, io il c'è sito gente che lo consiglio, chiede, c'è vai gente... a leggere e fai le tue scelte. E c'è gente che va là. Questo è quello che dico. Bisogna dire a queste persone di non andare sul, andare sul sito e farsi due ghignate e poi di andare da medici specializzati. Ma che vanno sul sito a farsi le ghignate, c'è chi invece mette in pratica e sta bene. E non, fa, sì. la chemioterapia. Ma non lo so, questo è un problema personale. Passiamo ai io vaccini. Io so solo che mia moglie... L'unica volta che è stata bene quando è ho chiesto al San Raffaele, sì, all'oncologa, di fare un test con mia moglie facendole delle inalazioni di un preparato a base di sali minerali, sali, e di vitamine. Vitamine è stato, sì, l'unico giorno che mia moglie si è alzata dal letto, che non camminava, dopo dei cicli di chemioterapia. L'ha ammazzata la chemio. Ha voluto far da mangiare. E mi ha detto, guarda, mi sento bene, sono tornato dall'oncologa e gli ho detto, ah, vede che non vengo con la carrozzina, perché purtroppo prima venivo con la carrozzina e la portavo io, adesso vede che mia moglie cammina, eppure ha fatto solo un'iniezione, un'infusione di questo allora, prodotto. Allora, fermola, Jean-Paul, l'ultima cosa, prima di chiudere, poi riprendiamo sicuramente le prossime settimane, perché il tema è molto importante. Ma certamente, non è allora, uno scherzo. I vaccini, dimmi tutto, i vaccini... Autismo, cioè chi prende i vaccini può diventare autistico? Tu che sei un tecnico, vai. Ma tecnico che è? Un giornalista, non sa niente. Che cazzo il tecnico è? Dai, non fammi arrabbiare. Sapete e conoscete il contenuto dei vaccini? No. C'è dentro la formaldeide, sì, che è un prodotto cancerogeno. Vai, c'è dentro l'alluminio, che è un prodotto tossico, che quando viene inserito puoi diventare, all'interno poi... di una cellula impedisce dunque, la cellula di dunque, funzionare. I vaccini uccidono. Possono anche uccidere la morte. L'autismo? Si chiama l'autismo? Sindrome della morte in culla. L'autismo? E l'autismo è un prodotto, sottoprodotto, una delle tante possibili controindicazioni dei vaccini. Ah, oh, ma incredibile. E si può diventare anche gay? Anche. Cioè in che modo si può diventare gay? Scusa, quei vaccini. È semplicissimo. Quando una sostanza tossica va in una cellula che è in un tessuto del sistema endocrino, è chiaro che va sotto stress ossidativo e non funziona più bene. Ah, beh, certo. E dunque... non crea certe proteine oppure certi ormoni che si necessitano all'organismo per potersi completare. I vaccini creano una generazione di gay? No, creano, possono creare, è diverso. Non farmi dire cose che io non dico, che non insomma, l'ho mai detto. Hai detto che possono creare una generazione di gay. Possono aumentare la quantità di persone che non riescono a completare non solo il loro sistema immunitario, ma anche la loro sessualità. Dunque, gender, transgender, eccetera, tutti causati dai vaccini. Poi, questa... Sono possibili cause dei vaccini. Mamma mia, ragazzi, che disastro. Parenzo, il giorno vuoi fare una pernacchia? Parenzo è allibito, Fai una pernacchia. Se potesse farebbe control cance sulla tastiera del computer. Vuoi concludere come? Ma bevendo dell'acqua, ma facendo dei gargarismi. Ciao Giampaolo. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io vedo molto negativo. Radio 24. La passione si sente.